Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Mi ha fatto riflettere un amico qualche giorno fa quando mi ha raccontato che nonostante abiti in un'area in cui è disponibile il teleriscaldamento non ne poteva approfittare perché era difficile convincere i condomini ad abbandonare la vecchia caldaia a favore di questo sistema. Allora stasera parliamo di teleriscaldamento con Luigi Franco Bottio, fondatore e segretario generale dell'AIRU, l'Associazione Italiana Riscaldamento Urbano, e che era direttore generale della Multi Utility di Brescia quando partì la prima esperienza italiana di teleriscaldamento. Buonasera Bottio. Buonasera. Allora, vediamo se lei riesce a convincere questi condomini riluttanti. Ci spieghi brevemente che cos'è il teleriscaldamento, ma soprattutto quali vantaggi offre all'utente. Bene, il teleriscaldamento come suo principio di fondo è l'utilizzo del calore già prodotto per altri obiettivi, tipo la produzione elettrica, quindi calore degradato che altrimenti andrebbe o sui fiumi o sul mare o nell'atmosfera, distribuirla tramite condotte interrate e quindi portarla in ogni abitazione. Quindi è una specie di sistema di riscaldamento come quello che abbiamo a casa dei termosifoni, per intendersi. Ecco, però invece di avere, come dire, la casa come territorio di distribuzione, ha magari un pezzo intero di città. È proprio così. Quindi, con riferimento alla sua domanda iniziale, come faccio a convincere i miei condomini. Il problema è questo: si tratta per ogni condominio di sostituire la centrale con tutti i problemi annessi e connessi con la manipolazione di un combustibile, caldaie, camini, fumi, sicurezza, controlli, certificazioni, con una, si può dire, una piccola scatola, perché a livello familiare è grande poco più di 3 libri messi assieme. Ah, addirittura. E mentre invece a livello condominiale è un po' più grande, ovviamente. Statico, perché non ha nessun organo in moto, che, come diceva lei, prende il calore dall'esterno, normalmente a 85-90 gradi, lo trasforma in temperatura più bassa e lo distribuisce al centro della città. Quindi quello che si paga è il calore e non il combustibile. In Italia a questo punto sta cominciando a diffondersi questa esperienza del teleriscaldamento, che appunto è cominciata a Brescia un po' di anni fa. Qualche città nella quale è presente? Beh, in questo momento superano le 50 le città italiane che o in parte o in toto hanno impianti del genere. A seguito subito di Brescia, Verona, Reggio Emilia, Mantova e qualcun altro. Torino. Adesso praticamente gli impianti più impegnativi sono a Torino, dove si utilizza l'energia di scarico della centrale termoelettrica di Moncalieri, che è in città praticamente, con acqua che andava sul Po, scaldare i pesci. Torino, poi un po' tutta la Valpadana. Siamo oltre 50, ma quello che è importante è che sono partiti e già efficienti parecchi impianti in centri da 20-30 mila abitanti. Ecco, tra l'altro, appunto qui mi interessa molto approfondire un altro aspetto. Abbiamo visto dal lato dell'utente, ma il teleriscaldamento si presta a una produzione distribuita del calore sul modello elettrico delle rinnovabili. Ci spiega, quindi, per chi può essere interessante questa opportunità? Questa è la nuova vera frontiera dei sistemi di riscaldamento urbano anche in Europa, e l'esperienza, come al solito, l'esperienza base viene nel nostro settore dalla Danimarca, dalla piccola ma dinamicissima, certo, e molto innovativa Danimarca, dove effettivamente sta nascendo, ma è già nata in parte, una rete di trasporto del calore che parte da una fonte fondamentale e attraversa una plaga sulla quale tubazione fondamentale, questo, come si dice in gergo, questo feeder, possono attaccarsi tutti coloro che, piccole industrie, anche agricoltura con le energie, biomasse, eccetera, che hanno del calore disponibile, ma che non sono in grado di utilizzare per ovvi motivi di dimensioni. Ecco, diciamo che insomma uno non si può fare l'impianto di teleriscaldamento se è una piccola azienda, ma se ce n'è uno ci si può attaccare e contribuire mettendoci dentro un po' di energia anche lui e guadagnandoci sopra, insomma. È la nuova frontiera sulla quale credo che i prossimi anni dovremo cimentarci con vero coraggio. Anche in Italia. Senta, velocissimo, quanto si può fare da questo punto di vista? Cioè, qual è il potenziale di generazione attraverso il teleriscaldamento? Di sfruttamento, ecco, diciamo, del calore che avanza? Abbiamo fatto degli notevoli studi, coinvolgendo anche l'Enea ed anche il CESI. Bene, diremmo in termini tecnico-cantierabile, c'è un potenziale che può tranquillamente decuplicare le attuali nostre installazioni. D'accordo. E siamo ottimisti al proposito, perché la curva di crescita del teleriscaldamento in Italia è veramente, veramente soddisfacente. Bene, possiamo lasciarci quindi con una buona notizia. Grazie Bottio. Prego, e arrivederci a presto. Grazie anche a tutti gli ascoltatori per averci seguito fin qui. Domani andiamo alla scoperta dei sistemi ORC, Organic Rankine Cycle, per produrre elettricità da cascami di calore nell'industria. Buona serata.